L'idea del torneo di Mondi nasce più o meno 3 anni fa da parte dell'associazione Il Grinta, che è un'associazione nata più o meno 4 anni fa, un'associazione che nasce da fondamentalmente un gruppo di amici, perché dopo diversi anni in cui partecipavo ai mondiali antirazzisti ho pensato di costituirsi come forma associativa, tanto per giocare a calcio. Mm-hmm. Poi da lì sono nati dei progetti relativi anche ad altri sport. All'interno del Grinta si gioca a basket, c'è un gruppo di donne in blu che sono delle donne che fanno ginnastica artistica, c'è anche una sezione ciclismo e una sezione pesca, che è molto importante per organizzare le gite in estate. Il Grinta, che ha la sua sede, aveva o ha, non so come definirlo, la sua sede al circolo Arci Guarnelli, ha dei rapporti molto stretti col circolo, soprattutto in relazione al quartiere in cui si trova, che è un quartiere di marginalità sociale. All'interno del circolo Arci Guarnelli infatti abbiamo organizzato diverse iniziative volte proprio a includere la cittadinanza, da tornei di biliardino a tornei di giochi scatola, mm-hmm, proiezioni di film, insomma attività per includere le persone del quartiere. Il Grinta è anche poi promotore della riapertura della palestra Gino Milli, dove anche lì porta, insieme ad altre realtà che partecipano poi anche al torneo di Mondi, un modo di fare attività fisica in maniera inclusiva e contro ogni tipo di discriminazioni. Quindi il torneo di Mondi nasce un po' da queste idee, dalle esperienze mondiali antirazzisti, dall'aver conosciuto durante gli anni delle squadre che compatibili e promotrici anche loro di questa idea, si è pensato di fare un torneo tutti insieme per portare avanti questi principi. Ci puoi ricordare in breve quali sono le particolarità del torneo? Allora, il torneo di Mondi è un torneo antirazzista, antisessista e antifascista. E dietro a tutti questi anti ci sono tanti pro. È un torneo per la socialità, è un torneo per fare sport insieme in maniera non agonistica, quindi in questo modo si porta avanti in maniera competitiva ma non agonistica. Cosa significa? Che le squadre, anche se con diversità implicita nel modo di affrontare lo sport, quindi chi è molto bravo e chi è molto scarso a giocare, possono giocare insieme persone che giocano da anni e persone che non hanno mai giocato, si prova a mediare e a trovare delle regole per fare sì che riescano a giocare insieme e a divertirsi, quindi mantenere una competizione nonostante magari delle basi di partenza differenti. È un torneo auto-organizzato, ciò significa che le diverse squadre che partecipano al torneo devono organizzare una giornata, e una giornata si divide fondamentalmente in due parti: una parte sportiva, quindi in cui si gioca il torneo, dove c'è un calendario, sono dei punteggi eccetera eccetera, e una parte successiva che è il terzo tempo, che è il momento della socialità e della condivisione tra tutte le diverse squadre. Un'altra peculiarità è la doppia classifica, cioè c'è la classifica normale, quindi la classifica sul campo, quindi squadra che vince, squadra che perde, pareggio, quindi 1-2-3, ma c'è anche la classifica della presa bene. La classifica della presa bene è una classifica che viene assegnata dai giudici di campo in base alle modalità con le quali le squadre stanno in campo. Quindi se una squadra è estremamente fallosa o non capisce lo spirito della partita, che è appunto quella di competere divertendosi con la squadra avversaria, avrà un punto. Se una squadra ha incorporato, comunque porta avanti i valori del torneo, avrà 2 punti. Se una squadra eccelle o porta avanti qualche partita particolarità, ma banalmente porta una tifoseria molto agguerrita o dà dei contenuti sociali e politici all'interno di quella giornata, allora avrà 3 punti. Un'altra caratteristica è che le partite sono... non esiste un arbitro, ma c'è un giudice di campo. Il giudice di campo è un po' il mediatore tra le squadre, nonché la persona che porta in campo i valori del torneo, che quindi non sarà lui a decidere se un gol è un gol, se un fuori o qualsiasi altra cosa, ma saranno le squadre, con la mediazione del giudice, a auto-arbitrare. Infine, c'è un episodio in particolare che ricordi con piacere che si è verificato all'interno durante il torneo? Più che un episodio, c'è una squadra che puntualmente riserva sempre tante sorprese positive, ed è la squadra del Lungoreno. È una squadra di disabili adulti psichici che vengono dal primo anno con il loro educatore. Mi ricordo che loro il primo anno in molti avevano anche più difficoltà a relazionarsi con la palla, perché nonostante giocassero comunque giocavano sempre in torneo magari con altri disabili o comunque tornei competitivi agonistici. Mm-hmm. Quindi all'inizio non capivano bene nemmeno in che contesto li stessero trovando, anche perché per loro era molto difficile anche venire a contatto con persone al di fuori di quella cerchia lì. Certo. Ed è la squadra che ci sta dando maggiori soddisfazioni, perché nel corso degli anni, a livello calcistico e sportivo, stanno crescendo tantissimo, a livello relazionale stanno crescendo tantissimo, e soprattutto è la squadra che più si sta inventando delle nuove regole per poter competere in campo, ed è grazie a loro che appunto stiamo inventando delle regole strane, così come come quella del vagante, dove chi non sa giocare a calcio non può essere pressato, o che si può giocare anche in 8 contro 5 per rendere competitiva la partita. Soprattutto appunto, anche loro a livello umano stanno tessendo delle relazioni molto forti, ed è la squadra che secondo me più, a me personalmente, sta dando più soddisfazioni. Poi gli episodi belli ce ne sono tanti, ogni giornata ha la sua particolarità. L'anno scorso, l'ultima giornata del torneo, il 2 giugno, abbiamo fatto una grigliata la sera prima a Bosco Albergati. Il giorno dopo eravamo in 16 squadre, è stato molto bello. Poi abbiamo fatto tutte le premiazioni, i rigori, nessuno voleva vincere il torneo perché cosa divertente. Un anno, Xapsa 2, per il periodo di carnevale, hanno giocato tutti vestiti da carnevale. Ogni giornata ha il suo, le sue sorprese, sì.